Come da poca picchita va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venen capedi ai dovi. Papà l'americano.